Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È lunedì 2 luglio del 2012, questa è Voi siete qui, io sono Matteo Caccia e questa è sempre Radio 24. Per i più attenti di voi, probabilmente questo potrebbe sembrare quasi uno scherzo, perché venerdì scorso vi avevo detto che il programma chiudeva. Il programma di fatto chiude, ma il programma va avanti fino alla fine del mese, con quello che semplicemente dalle nostre parti si definisce the best of, o più semplicemente il meglio di. Cioè per tutto il mese di luglio sceglieremo non uno, ma due racconti a puntata, quindi uno prima e uno dopo la borsa, perdonatemi, cioè uno fino alle 4:30 e un altro dopo, per continuare a raccontare le storie, o meglio a riraccontare le storie che ci sono arrivate durante l'anno. Ne approfitto però in questa primissima puntata del meglio di per dire a quelli che non hanno ancora mai scritto una storia e non l'hanno ancora mai inviata, ma soprattutto anche a quelli che l'hanno già scritta, che l'anno prossimo si continua, l'anno prossimo si intende in realtà tra un paio di mesi, cioè i primi di settembre, si continua la trasmissione, si continua Voi siete qui e quindi si continuano a ricevere le vostre storie. Voi siete qui, @radio24.it, un episodio della vostra vita, un episodio che racconti qualche cosa di voi in una pagina. Voi siete qui, @radio24.it. Oggi cominciamo, o ricominciamo meglio, con una storia che è andata in onda all'inizio della primavera del 2012, ed è la storia di qualcuno che scopre qualche cosa. Nella fattispecie Filippo, che è l'autore ed è il protagonista della storia, è un archeologo e si trova a scavare in un paesino, perché come tutti gli archeologi scavano per cercare, poi esattamente non si capisce mai bene che cosa cerchino gli archeologi, però per cercare qualcosa. E quello che trova sono dei resti umani, risalenti a moltissimi anni prima, cosa che lui dice, insomma, è abbastanza usuale. Li trovano, però capisce subito che è un gran casino quello che sta per succedere. E quello che succede è che a un certo punto arrivano le forze dell'ordine, arrivano due carabinieri con cui c'è un simpatico diverbio, e soprattutto a un certo punto il maresciallo dei carabinieri, quando lui gli dice che in realtà non sono salme, ma sono solo ossa, gli dice: giovanotto, voi siete indisponente e secondo me pure un po' comunista. Ma questa è la storia che vi racconta Filippo, e la lasciamo raccontare direttamente alle sue parole. Io vi ricordo che in ogni puntata ci sono due storie, una adesso e una dopo. Voi siete qui, @radio24.it, questa è la storia di Filippo. Questa è una storia di morti e di vivi. Una storia strana, per certi versi incredibile. Fatemi credito di un po' del vostro tempo e mi darete ragione. Sappiate però fin d'ora che sono disposto a giurare sulla luce degli occhi miei che ogni singola parola che sentirete qui appresso corrisponde a verità. Veroli è un bel paesino della Ciociaria, di storia antica e nobile. Prima del giro del millennio io abitavo nella periferia sudorientale di Roma, a Centocelle. Da lì Veroli distava esattamente 95 chilometri. E percorrevo ogni mattina con l'autobomba, una vecchia Audi 80 immatricolata 9 anni prima, modificata con impianto GPL, acquistata per 3 milioni di lire. Avevo appena finito il servizio civile e iniziato il dottorato di ricerca, ma con il primo esperimento moruxorio in corso e le rate della borsa di studio in clamoroso arretrato, non rifiutavo qualche lavoretto per arrotondare. Cose tipo i soliti scavi di emergenza. Nemmeno a 95 km di distanza. Credo prendessi 180.000 lire nette al giorno. Insomma, ci si poteva stare. Si può fare l'archeologo in moltissimi modi e pochissimi di questi sono pagati in maniera decente. E si può fare l'archeologo come lo fa la maggior parte degli archeologi italiani e come l'ho fatto anch'io fino a 2 anni fa, facendo il collaboratore esterno nelle sovrintendenze. Partivo la mattina con il sole in faccia appena sorto. Parcheggiavo fuori dalle mura e risalivo a piedi fino alla piazza principale. Il cantiere era nelle cantine del palazzo municipale, costruito in parte sopra l'antico foro. Monaci, cavalieri e poveri cristi si erano fatti chiese, stalle e case su quanto rimaneva della città degli Ernici, ammassando come di consueto muri su muri e lasciando le ombre di comignoli e soffitte a regnare sulle vie strette e contorte del borgo. Certe mattine di febbraio, spazzate dal vento, e nemmeno un'anima in circolazione, sembrava di essere finiti in uno di quei paesini covo di streghe, fermi nel tempo, in mezzo ai monti. I locali dove lavoravamo erano aperti su una stradina laterale, umidi, bui